Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 3 febbraio 2015. Allevamenti di ovaiole in batteria. Ora l'Italia è in regola. Con un po' di ritardo, ma finalmente in regola. Anche in Italia è oramai attiva e rispettata la normativa dell'Unione Europea che proibisce gli allevamenti di galline ovaiole in batteria. In questi giorni le forze dell'ordine hanno infatti sanzionato l'ultimo allevamento di galline da uova che non rispettava la legge nazionale. Il divieto europeo era stato introdotto nel 1999 ed era diventato obbligatorio dal 1 gennaio 2012. Da allora gli impianti produttivi italiani si sono adeguati, hanno infatti adottato il sistema dell'allevamento biologico, il migliore, oppure l'allevamento a terra o quello in gabbia modificata, che garantisce le condizioni minime di benessere per gli animali. Fin qui la notizia del 3 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Al momento il rispetto della normativa europea in Italia pare un obiettivo lontano, come denuncia Roberto Bennati, vicepresidente della Lega Antivivisezione. Dal 1 gennaio 2012 effettivamente è entrato in vigore un requisito fondamentale di storica importanza di una legge comunitaria che vieta di fatto la detenzione delle galline in cosiddette gabbie di batteria. Sono delle vecchissime gabbie che tenevano gli animali confinati in una condizione di gravissimo malessere ma di altissima produttività. Queste gabbie fin dal 99 furono dichiarate illegali. In 13 anni non è stato fatto praticamente nulla in Italia, si è andati verso sistemi alternativi, quindi sistemi che non comportano l'utilizzo di gabbie, ma non si è lavorato per aprire queste. Chiediamo oggi che venga sospesa la vendita delle uova che sono illegali e nessuno ci risponde. Bruxelles apre una procedura di infrazione che costerà 900.000 euro al giorno ai cittadini italiani, eppure nessuno risponde sul fatto che non stiamo facendo adeguare questi impianti. Perché? Noi chiediamo, l'abbiamo chiesto pochi giorni fa al Ministero delle Politiche Agricole, al Ministro Catania, per quale ragione non si sospenda la vendita di uova che sono illegali. È un atto dovuto, stiamo portando anche le aziende che fanno questo nei tribunali italiani. Non abbiamo altri strumenti. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.